La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Penultima puntata agostana della Rosa Purpurea, amici all'ascolto, un saluto da Franco D'Assisi, questa è l'ora di cinema di Radio 24 per parlare delle novità in sala, per avvicinarci ulteriormente alla Mostra del Cinema di Venezia che ormai apre le porte fra 4 giorni in quella del Lido e per continuare il nostro viaggio sulle novità autunno-inverno, per dirla con la moda, che vedremo sul grande schermo nei prossimi mesi. Oggi tra l'altro tra i nostri ospiti Silvio Muccino, che comincia a rivelarci qualcosa del suo nuovo film Le leggi del desiderio. Insomma, tanta carne al fuoco. Come al solito noi cominciamo con questa settimana che segna un po' il ritorno di un cinema con qualche pretesa, anche se poi sarà il prossimo weekend quello che ci dirà che di fatto al cinema è cominciato l'autunno. Però insomma qualche film importante, almeno per quanto riguarda i cast, arriva in sala e noi cominciamo con il parlare di Cattivi vicini, che è un film diretto da Nicholas Stoller con protagonisti Zac Efron e Seth Rogen, di fatto uno contro l'altro, se vogliamo, in questo film Neighbors nel titolo originale. Storia di una coppia, una giovane coppia con una bambina molto piccola, Mac e Kelly Radner, che scelgono, per stare tranquilli proprio, di andare a vivere in un quartiere di quelli tipicamente americani, con le casette con il loro bel pezzo di giardino davanti, dove il vicinato si saluta di buon grado la mattina presto, e però si rendono conto che a un certo punto quel vicinato non è così tranquillo. Perché? Perché nella casa di fianco arrivano in affitto, ma in un affitto abbastanza a lunga scadenza, una sorta di mandria sostanzialmente di universitari, una confraternita di universitari che amano fare delle feste un pochino esagerate. Ma è una confraternita? Guarda che braccia! E poi gli diciamo poco casino. Magari non in quel modo, glielo diremo... Poco casino. Tiro meglio, normale stavolta. Sì. Buttala via, bravo. Però un poco caro. Tiro in modo più normale. Ehi, se magari in certi orari poteste fare... Poco casino! Se facciamo troppo chiasso, non chiamate la polizia. Ok. Ok. Lo dico anche agli altri. Sì. Scatenate l'inferno! Cosa ti chiamiamo la polizia? Sembreremmo degli stronzi. Fallo in maniera anonima. Lasciamo fare a loro il lavoro sporco. Sì, quella là. Oh, cazzo! Siamo stati sputtanati! Ha chiamato lei per gli schiamazzi notturni? No. Identificatore di chiamata. Siamo la polizia. Non mi dica che lei non ce l'ha. Perché siete contrari alla Robert De Niro? Ma dici a me. Sì, ce l'ho con te, brutto scemo. Ti tengo d'occhio, bello. Mi scusi per la palla in faccia. Non ne posso più. Non volevo passare all'artiglieria pesante, ma la guerra è guerra. Penso che i ragazzi ci abbiano scassinato la macchina e rubato il clacson. Che cosa butta? Ma perché rubare il... Ma tu va a capire perché. Airbag! Ci hanno rubato l'airbag! Airbag che vengono tra l'altro posizionati nelle sedie degli uffici dei nostri protagonisti con esiti abbastanza esilaranti. È interessante, chiaramente ci sarà una sorta di tentativo, il film verte tutto sul tentativo di ribellarsi a questa situazione da parte di due persone che si amano molto ma che vorrebbero anche in fondo somigliare a quei ragazzi così sbandati, ma insomma avendo questa bambina piccola vorrebbero anche stare dall'altra parte della barricata. Alla fine il film è tutto lì, molto sboccato, molto irriverente, diverticchia, diciamo così, qua e là, senza alcuna originalità, anzi con momenti di ripetitività, se vogliamo, soprattutto nella parte centrale del film. Però la cosa interessante di questo film è quella di vedere due personaggi così diversi come Seth Rogen e Zac Efron, due elementi. Seth Rogen molto vocato alla commedia, Zac Efron magari che sta cercando ancora una sua strada per uscire definitivamente dall'High School Musical, tra l'altro lo vedremo nelle prossime settimane, in queste settimane proprio in numerosi film che hanno come protagonista questo ex bel ragazzino che sta cercando di trovare appunto un suo collocamento nel firmamento delle star americane. Certo, stavolta questo duello continuo fra Zac Efron, che fa lo scafato, fa quello che ne sa più di quello che lascerebbe pensare la sua età, e un Seth Rogen che sembra più adolescente in realtà invece del suo ruolo di padre, sembra funzionare abbastanza. Noi le chiediamo conferma a Boris Solazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Sì, non sembra affatto una commedia scontata, almeno nel casting, perché appunto Efron cerca di togliersi quella patina da bravo ragazzo che si è costruito in anni e anni da star di teenager. E Rogen invece si imborghesisce molto rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni, e questo rende sicuramente Cattivi Vicini piacevole. Tra l'altro, appunto, il buon vicinato, ma ancora di più il cattivo vicinato, è un'ossessione degli americani, da Walt Disney con Anacleto Mitraglia fino a che faceva impazzire Paperino, fino allo stesso Clint Eastwood in Gran Torino. Quel tipo di rapporto tira fuori il meglio e il peggio dalle storie. Cattivi Vicini paga forse un'eccessiva leggerezza e un'eccessiva banalità nella reiterazione di quello che propone, ma abbiamo visto di peggio in merito, in tema, e quindi lo accettiamo volentieri, anche se temo che dobbiamo rassegnarci al fatto che Zac Efron, un grande attore, non lo sarà mai. E allora vedremo se rassegnarci, se dovranno rassegnarsi anche le sue tante fan dell'epoca di High School Musical, ormai sempre più lontana. Allora andiamo avanti con l'analisi dei film di questa settimana, passando di palo in frasca, o forse se volete anche dalla padella alla brace, potremmo dire, perché a proposito di film che avevano un pubblico, che avevano un target e che a un certo punto hanno cercato la via del sequel, arriva nelle sale italiane Step Up All In. Ascoltiamo la clip. Accade qualcosa di magico quando balli. Tutto si allinea. Il mondo è in perfetta sincronia. E in quel momento ti senti pienamente vivo. Mi dispiace ragazzi, ma abbiamo già trovato quello che cercavamo. Lo sanno tutti che non è facile. Pensavo che Los Angeles fosse il posto dove i sogni diventano realtà. Deve essere brutto essere famoso per 5 minuti e poi vedere che il tuo flash mob è già dimenticato. Svegliati, questa crew non è pronta per Los Angeles. Questa è la gara di ballo più importante, con il premio più prestigioso, un contratto di 3 anni a Las Vegas. Non possiamo partecipare da soli, mettiamo insieme una crew? Ah, sì! Boris, qui veramente è tutto già scritto, già scontato, forse anche un po' già visto, e quindi è chiaro che è un classico esempio di brand, di franchise che va avanti, perché Step Up è Step Up, e quindi possiamo fare anche il 15, il 23, ce li troveremo forse davanti ai piedi nel prossimo futuro, ma insomma forse anche l'uscita da 23 agosto aiuta a capire che insomma non è che ci si creda più di tanto. Ma il segreto di Step Up è che non, A, non ricordi quanti ce ne sono stati, B, se provi a mettere in fila le trame non ricorderai mai a quale si riferiscono. Step Up è fondato sulla reiterazione ossessiva di schemi narrativi e visivi. Con il tempo si è passati da un'estetica alla Saranno Famosi, alla Flashdance, verso invece un'estetica da video ultramoderni, molto patinati. Più di Flashdance e di Saranno Famosi ha Step Up, la saga di Step Up, una ormonalità maggiore, nel senso che la dinamica tra i due protagonisti, quello maschile e quello femminile, o in questo caso Ryan Guzman e Brianna Evigan, è sicuramente più sensuale, anche se fino a un certo punto, perché è talmente patinata l'estetica che è una sensualità quasi asessuata, fondata tutta sul vestiario e sul look che hanno questi ragazzi, lui quasi sempre a torso nudo, lei con top e shorts inguinali, e sembra tutta una strategia di marketing continua, all in, si dice anche nelle partite a poker, e qui sembra semplicemente che Step Up faccia la sua puntata maggiore, cioè decida di mettere tutto quanto a volume altissimo, tutto quanto ai livelli più alti, tutto quello che abbiamo già visto, e provare a vedere se funziona ancora. A mio parere funziona sempre meno. I primi mi avevano anche affascinato e li avevo seguiti. Adesso davvero faccio fatica a non pensare di averlo già visto, anche nelle stesse dinamiche e con gli stessi dialoghi. E abbiamo benedetto anche Step Up All In. Allora, un'altra novità in sala di questo fine settimana è quella dell'horror Liberaci dal Male. Qui c'è Eric Bana nel cast e siamo a New York, dove un ufficiale di polizia, appunto interpretato da Eric Bana, con problemi personali piuttosto ingenti, indaga su una serie di crimini che sono accaduti e di quali non si riesce a venire a capo. Per farsi aiutare becca chi? L'esorcista, ovviamente, un prete, appunto Edgar Ramirez, l'attore, che ha studiato i riti dell'esorcismo, perché probabilmente l'origine del male da cui liberarsi è del tutto sovrannaturale. Sono un poliziotto. Il lavoro prima di tutto. Quando sei in servizio lo capisco, ma quando sei qui, non sei qui. Ciao papà, ti voglio bene, vorrei che fossi a casa. Voglio vedere l'agente Sarci. Ho conosciuto molti preti, tu non sembri il tipo. Io molti sbirri e neanche tu sembri il tipo. Ogni notte cammino in mezzo alla feccia, ho visto cose orribili. Ma nulla che la natura umana non spieghi. Scritte che non capisco. Ho sperimentato due tipi di male in questa vita. Il male secondario, quello che fanno gli uomini, e il male primario, che è tutta un'altra cosa. Non puoi combatterlo nel solito modo. Boris, uno sbirro e un prete per venire a capo di questa storia diretta da Scott Derrickson, Deliver Us From Evil. Il titolo originale, Liberaci dal Male, quello italiano, liberaci anche dal film, o tutto sommato è sopportabile? Ma il film è sopportabile, è difficile sbagliare un film con un esorcismo, è talmente, si richiama a paure talmente ancestrali della nostra vita, del nostro immaginario, che con degli effetti speciali appena decenti comunque si riesce a far breccia nello spettatore. Ecco, bisogna arrivare a un film come quello fatto da Anthony Hopkins come attore, come prete, per trovare qualcosa di sbagliato. Certo è che il fatto di rifare sempre la stessa cosa è addirittura dimostrato dalla gaffe della distribuzione italiana, che lo chiama Liberaci dal Male come era stato chiamato The Last Exorcism 2 l'anno scorso, che come sottotitolo aveva esattamente Liberaci dal Male, e questo ci dovrebbe far capire come in qualche modo anche in chi li compra questi film richiamano sempre la stessa cosa. In questo caso forse c'è in più il coinvolgimento della comunità, della forza di polizia, il fatto che non si parla solo di un problema spirituale o personale, ma di un problema di sicurezza sociale, di sicurezza civile, perché effettivamente poi gli indemoniati ormai li portano a essere così estremamente posseduti da essere estremamente pericolosi anche per gli altri e non solo per le proprie famiglie. Eric Bana purtroppo è la pallida copia del buon attore che era. In verità piace di più Edgar Ramirez, però insomma, se vi piace proprio il genere potete andarlo a vedere, perché la sufficienza la prende. Ma se non siete appassionati del genere, insomma, questa volta potete passare. Ogni cultura, ogni religione ha praticato l'esorcismo. Sento una presenza oscura dentro di me. Mi sta succedendo qualcosa. L'hai visto, vero? Hai come un sesto senso. Ma questo ti espone al rischio. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, seconda parte. Dicevamo, diamo un'occhiata ai film che arriveranno in sala ormai fra quattro giorni, uscite del 27-28 agosto, perché quella sarà una settimana, la prossima, il prossimo weekend, molto molto denso. Sono per il momento previste 10 uscite e chiaramente non ci sarà spazio per tutti la settimana prossima, anche perché la nostra puntata verterà in gran parte sulla Mostra del Cinema di Venezia, che sarà in pieno svolgimento. E allora, con Boris Sollazzo, un passo avanti, anticipiamo le uscite rispetto a quello che facciamo di solito qui alla Rosa, dove la nostra policy è quella di parlare di film che sono già in sala, in modo che la gente poi possa andarli a vedere e non debba segnarselo per forza sull'agenda. Ma, dicevamo, grazie a questa possibilità, Il Fuoco della Vendetta, Out of the Furnace, titolo originale del film che è diretto da Scott Cooper, è un thriller. Ascoltiamo questa clip. Russell, tu lavori troppo. Sì, sono instancabile, forte, ti farò arricchire. Quanti te ne servono? 1.500. Non mi girano in tasca così tanti soldi da tirarti fuori dai guai. E allora, la storia di Russell, l'avete sentito nominare nel trailer, appena uscito di prigione, che vorrebbe cambiare vita, sposare la sua ragazza, insomma, cercare di mettere definitivamente la testa a posto, ma le cose nella vita a volte non vanno come vorresti, e quando suo fratello minore, coinvolto in un giro di scommesse, viene ucciso, chiaramente in Slim la strada della vendetta sarà la principale da seguire. È un film, questo Out of the Furnace, prodotto da nomi importanti del cinema, fra i quali cito quelli di Leonardo DiCaprio e di Ridley Scott, tanto per intenderci, e che è interpretato da Christian Bale nel ruolo di Russell, nel ruolo principale. Al suo fianco ci sono nomi altrettanto altisonanti per il cinema americano come Zoe Saldana, Woody Harrelson, Willem Dafoe, Forest Whitaker e Casey Affleck. Insomma, un cast di tutto rispetto, Boris, per questo thriller. Assolutamente sì, voi tirate un filo che parte dal calciatore e arriva a Non è un paese per vecchi, e in mezzo troverete Out of the Furnace. Ovviamente lo troverete più in basso, ovviamente non vuole neanche arrivare a quei livelli, però l'ispirazione, il motore che alimenta il sacro fuoco della vendetta, che è uno delle benzine maggiori che il cinema in particolare americano cerca per fare dei bei film, ci offre un western neanche metropolitano, un western nella provincia profonda che ci farà male al cuore, ci farà male anche al fisico, ci scartavetrerà l'anima, per un Christian Bale che come al solito è fantastico, un Christian Bale che è quasi un Cristo redento che inevitabilmente però deve scendere sulla croce e mettersela sulle spalle e decidere però con quella croce non di sacrificarsi, ma di sacrificare tutto quello che aveva sperato di diventare e non poteva diventare. È un film che forse rispetto ai due modelli che dicevamo è anche più spirituale, anche più forte a livello di emotività e empatia umana, nonostante poi la location in cui è presente dovrebbe togliere qualsiasi poesia, però proprio perché è così disperata quella landa, è così disperata quella fornace del titolo che ha sostanzialmente tagliato in due l'anima di questi due fratelli, uno dei quali tra l'altro ha fatto anche l'Iraq, altra fornace, altro forno in cui tanti giovani hanno bruciato corpi e anima, è così disperata, come dicevamo, che di fatto diventa di una poesia atroce, devastante. Non è molto originale Out of the Furnace, lo schema è molto classico, gli attori sono tutti bravissimi e tutti seguono un copione che abbiamo visto tante altre volte, però è veramente quello che si suol dire un film fatto bene, è un film che cura la sceneggiatura, è un film che cura la recitazione, è un film che cura la fotografia, è fondamentale la fotografia in questo film, è un film che non lascia nessun dettaglio trascurato e quindi forse non avremo un capolavoro, però potrebbe essere studiato nelle scuole di cinema per dire ai prossimi registi, ecco, così si fa un film. E Scott Cooper ottiene questo obiettivo lo ottiene con qualcosa che comunque ti rimane nel cuore e nell'anima, e davvero non è poco, anche se magari non entrerà nella storia del cinema. Si può sapere perché vuoi combattere? Mi servono soldi. Sarà meglio che fai il bravo ragazzo e ti tuffi, o dovrò darti una bella lezione. Johnny! Johnny! Non hanno trovato tuo fratello. Vedrò che il peggiore di tutti vive su quelle montagne. Ti prego, non fare l'eroe. Sono il fratello di Rodney Blaze. Non me ne andrò senza di lui. Allora, settimana prossima, fra pochi giorni, nelle sale Out of the Furnace, il fuoco della vendetta. Noi invece accendiamo il fuoco del nostro DVD game, perché come sempre c'è un film da indovinare per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Ascoltiamo. Sera, signor Edna. Penny ha chiamato tua madre. Tracy, ti fa tanta fatica salutare la signora Malinsky? Buongiorno! La Rosa Purpurea @radio24.it, come sempre l'indirizzo di posta elettronica per partecipare al nostro game, scrivendo il titolo del film e il vostro indirizzo privato per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra pochi minuti vi daremo un'altra traccia. Torniamo indietro proprio nella settimana che si affaccia alla Mostra del Cinema di Venezia, torniamo indietro di un anno a Venezia dell'anno scorso, a Venezia 2013, quando Scarlett Johansson fu presente con un film molto, molto particolare di Jonathan Glazer che si intitolava e si intitola Under the Skin. Ebbene, questo film adesso è nei cinema italiani proprio dal 27 di agosto. È un film di fantascienza, dobbiamo dire, nel senso che racconta la storia di un'aliena che ha, beata lei, il corpo e le sembianze di Scarlett Johansson, o meglio Scarlett Johansson entra dentro nel corpo di una terrestre e diventa come lei. E cosa fa questa aliena sulla Terra? Siamo in Scozia, tutta l'azione si svolge in Scozia, va in giro per le strade con una freddezza abbastanza ovviamente sospetta per lo spettatore che sa tutto, ma non abbastanza per i poveri personaggi che incontra, quasi tutti uomini, quasi tutti soli, che incontra per le strade della Scozia e che abborda per portarli poi in una sorta di limbo onirico nei quali sostanzialmente li intrappola. È uno spazio che non esiste, è uno spazio oppure che esiste in un'altra dimensione, ma è uno spazio molto molto inquietante. Allora andiamo ad ascoltare nel passaggio del film uno degli approcci dell'aliena Scarlett Johansson. No girlfriend, really. Oh, I don't have a girlfriend at all. Very charming. It's better. Yeah, sorted. You have a handsome face. Aye. Yeah. Thanks a lot, cheers. You think I'm pretty? Aye, you're gorgeous. Do you? Aye, definitely. I make smiles well, whatever. Do I? Aye, big thing. About your smile. Aye. You have a nice smile yourself. Cheers. E allora, le cose cambieranno quando, dopo aver assistito a una scena piuttosto cruenta che non vi raccontiamo, la nostra aliena Scarlett Johansson tenterà di provare a vivere come gli umani, tenterà di mangiare, tenterà di fare l'amore, e questo chiaramente provocherà in lei un po' una sorta di svolta all'interno di questo film. Non vado avanti a raccontarvi nulla perché il film è tutto da vedere nelle sue tonalità oscure, in questa musica vagamente hitchcockiana, in una fotografia che soprattutto nei primi 20-25 minuti rasenta la fotografia di alcuni film di Kubrick. Non voglio essere blasfemo l'accoppiamento, ma insomma Jonathan Glazer è uno che pensa cinema in maniera molto molto visiva. Poi magari il film non è del tutto riuscito, magari ha dei momenti irrisolti in termini di sceneggiatura, ma sicuramente è una delle cose più originali che si sono viste a Venezia l'anno scorso e che arrivano sugli schermi italiani. Boris, cosa ne pensi? Beh, è uno stranissimo oggetto e progetto cinematografico questo Under the Skin. A Venezia, come al solito, nell'isteria collettiva che si crea in un festival, fu maltrattato e trattato con l'accetta, e questo è sbagliato, perché come dici tu, Glazer è veramente uno che si ciba di un cinema molto personale, molto raffinato, molto pensato e anche molto interessante. È difficilmente classificabile, perché tu hai parlato di un film di fantascienza e hai ragione, ma è anche di fatto Il film intimista per eccellenza, un on the road consumato quasi tutto a piedi o al massimo in un furgone, in cui questa donna che ha le sembianze, questa aliena che ha le sembianze di Scarlett Johansson, percorre un sentiero che la porta dal suo essere aliena, da quell'oscurità che sta nel suo corpo ma anche fuori, perché la fotografia è davvero cubissima, tu hai fatto dei riferimenti molto azzeccati, da Kubrick a Hitchcock, si sente pesantissima quell'ispirazione, forse anche un po' troppo, e di fatto cerca la sua anima ma rapisce quelle altrui, di uomini che sono penalizzati nell'aspetto o nell'isolamento o anche solo in una ricerca spasmodica di qualcosa che non troveranno mai. Glazer è assolutamente feroce nel raccontare questa solitudine moltiplicata all'eccesso, perché poi la più sola ovviamente è lei, lei che vorrebbe essere umana e non riesce neanche ad essere umana, mentre tutti coloro che incontra comunque un barlume in negativo o in positivo lo hanno, e questa ricerca si fa disperata, tanto più è inespressiva, non so se volontariamente o involontariamente, Scarlett Johansson, che qui riesce nel miracolo di spogliarsi, ed è una cosa che abbiamo visto raramente, se non mai vestendo una seconda pelle, e già questo dovrebbe far capire molto di Under the Skin, che non a caso nel titolo già racconta molto. E devo dire che però Glazer ha una coerenza visiva e narrativa veramente ammirevole, che si racchiude tutto in quel finale che non racconteremo, ma che è di una tragicità e allo stesso tempo di una setticità che rappresenta benissimo questo film. Faccio fatica a dare un giudizio, perché di fronte a oggetti cinematografici così il giudizio è davvero riduttivo. Credo che debba essere visto, perché comunque nell'ambito del genere in cui si iscrive rappresenta comunque un passo originale. Per me in molte parti non è riuscito, in molte parti non riesce a dare quello che vorrebbe, ma ripeto, è davvero molto molto interessante. Averne allora di Under the Skin, di progetti e di oggetti così ambiziosi nel cinema di oggi. Grazie Boris, appuntamento la prossima settimana per parlare di tanto cinema anche da Venezia che arriva nelle sale italiane. Alla prossima settimana e buon cinema, e a questo punto anche buon festival. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, e come annunciato poco fa, stiamo per raccontare in anticipo quello che si può del programma della Mostra del Cinema di Venezia, del programma principale, del programma centrale. Lo abbiamo fatto la settimana scorsa andando nelle sezioni collaterali con Francesco Di Pace e Giorgio Gosetti, che ci hanno raccontato la settimana della critica e le giornate degli autori, ma adesso, quando i tamburi del Lido cominciano a rullare, noi siamo in collegamento con Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, per parlare di concorso, di star, insomma di che cos'è questo festival 2014. Ciao Alberto, grazie di essere ancora qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao, ciao, è un piacere davvero essere con voi. Allora, un'annata come il vino, no? Cioè, ci sono le annate, i festival si misurano un po' con quello che c'è, con quello che c'è in giro, ma mi sembra che anche quest'anno, insomma, la selezione sia interessante, offra spunti di cinema molto variegato, ci sia una bella presenza del cinema italiano più qualificato, ci sia una presenza di un cinema americano, come dire, che c'è, e anche di quello importante, ma senza farsi vedere troppo, non so come dire, senza per forza sì, far turbinare i tappeti rossi, ma con personaggi da tappeto rosso. Basti pensare al film d'apertura, tanto per dire, se vengono tutti devi allargare il tappeto probabilmente. Allora ti chiedo proprio questo, Alberto, insomma, come potresti fotografare questa selezione 2014? Ma guarda, tu hai riassunto benissimo in realtà, perché è proprio così. Intanto io sono molto soddisfatto e credo che sia un'ottima selezione di grande qualità. È molto varia, per cui c'è di tutto, ci sono grandi film americani, film importanti del cinema indipendente americano, quattro film francesi di concorso che sono bellissimi, segno di una vitalità, di una forza particolarmente sorprendente del cinema francese quest'anno. Ne ho visti almeno 10 o 12 che potevano essere tutti a Venezia, ma ovviamente non potevo inzuppare il concorso soltanto di titoli d'Oltralpe. C'è una forte presenza del cinema italiano sparso nelle tre sezioni, concorso, orizzonti e fuori concorso. C'è molto cinema da tantissimi paesi nel mondo, sono più di 40 i paesi rappresentati quest'anno a Venezia, quindi con una sorta di davvero record storico. E quindi si va dai grandi film americani di forte impatto sul pubblico e spettacolare, a piccoli film d'autore di cinematografie marginali ed emergenti, ma che sono invece estremamente interessanti, perché sono la segnalazione che il cinema è vivo, è vitale, che si fa in tutto il mondo, anche se non arriva nelle nostre sale commerciali senza più asfittiche e limitate, ma è un segno che il cinema è vivo, e i special servono anche a questo, a far vedere, a far conoscere al pubblico, agli spettatori, agli appassionati, ai cultori di cinema tutto quello che oggi di interessante e anche di nuovo si produce in giro per il mondo. Ecco Alberto, andando un po' nel particolare, cinema italiano in concorso, chiaramente sì. Mario Bartone e Saverio Costanzo sono due nomi che ti aspetti, se fanno un film ed è di livello, del livello che ci aspettiamo, ovviamente va in concorso a Venezia. Il nome che magari ti aspetti meno è Francesco Munzi, potrebbe essere un po' l'outsider del nostro cinema. È l'outsider, e io sono convinto che sarà anche la sorpresa di questo concorso, perché Francesco Munzi aveva esordito una decina d'anni fa proprio a Venezia con un film che si chiamava Samir, che aveva colpito per la sua forza, originalità, e era la storia di un giovane immigrato albanese nel nostro paese. Poi ha fatto un secondo film meno riuscito e meno di successo, che era andato alla Quinzena a Cannes, ma che poi pochi hanno visto quando fu distribuito commercialmente, e poi è scomparso anche lui per 4-5 anni, adesso non ricordo esattamente quanti, non si è più visto. Adesso arriva con questo film molto forte in tutti i sensi, forte perché racconta una storia di faida fra due famiglie dell'Andrangheta calabrese, ambientata in un villaggio sperduto sull'Aspromonte, parlato, interpretato da grandissimi attori dialettali che parlano tutto il film in calabrese, per cui dovrà essere sottotitolato per altrimenti non si capisce niente, quindi con una scelta d'autore molto, molto rigorosa e molto radicale, ma un film molto forte, duro, cattivo, e quindi insomma qualcosa di molto diverso dal cinema italiano di questi ultimi tempi, fatto di commedie più o meno leggere, più o meno riuscite, più o meno convincenti. Per questo che i tre film sono, come dire, che sono molto diversi. Vabbè, il film di Martone lo sappiamo, è la ricostruzione della figura e della vita di uno dei più grandi poeti, scrittori, intellettuali dell'Ottocento italiano. Il film di Saverio Costanzo è un film a suo modo, anch'esso inconsueto, perché è un piccolo film a basso budget, girato interamente a New York, in lingua inglese, con due grandissimi attori che sono la nostra Alba Rohrwacher, che recita benissimo in inglese, e uno dei divi emergenti del cinema americano, che è Adam Driver, richiestissimo, ormai sta girando Star Wars, come sapete, a Londra con George Lucas, ed è un film, anche questo, che osa, è un film difficile, è un film con una storia dura, per certi versi anche sgradevole, interpretato meravigliosamente da questi due straordinari attori, ed è un film che osa confrontarsi che sceglie di collocarsi al di fuori delle coordinate geografiche e culturali del cinema italiano, che si misura quindi con il mercato internazionale, e io gli auguro e spero che abbia davvero molta fortuna in questo senso. Allora ricordiamo Il giovane favoloso di Mario Martone, appunto il film su Leopardi, Hungry Hearts di Saverio Costanzo. C'è tanta Italia anche, e sono tanto curioso di vederlo, nello sguardo di un regista anomalo come Abel Ferrara, e con il suo Pasolini, che mette dentro i pasoliniani come Ninetto Davoli di fianco a Riccardo Scamarcio. Guarda, quello sarà un film che sorprenderà, perché naturalmente non è una biografia di un santino dedicato a uno dei più grandi scrittori intellettuali del Novecento italiano. È un film di Abel Ferrara, quindi provocatorio, inaspettato, complesso, con diversi livelli narrativi, girato in gran parte in inglese e in parte in dialetto romanesco dai ragazzi che interpretano i giovani di Borgata nell'ultima, nella ricostruzione della, delle ultime 24 ore di vita di Pierpaolo Pasolini, quindi un film che susciterà sicuramente grandi dibattiti e forse anche qualche polemica, però staremo a vedere. Cinema, dicevamo prima, in fase di introduzione americano con le star, col cinema indipendente. Interessante la scelta del film d'apertura il 27 agosto con il Birdman di Alejandro Iñárritu, ma con da Michael Keaton a Edward Norton, da Zach Galifianakis e con Le sue notti da leoni è diventato famoso, a Emma Stone e Naomi Watts. Insomma, dicevamo allargare la passerella, ma c'è tanta roba, insomma. Un grandissimo cast, un film, guarda, anch'esso sorprendente, perché non è il solito Iñárritu, nel senso che, vabbè, lo conosciamo, un grande regista, un po' pesante a volte nelle tematiche e anche nel modo di raccontare la sua storia. Questa volta invece è un film sorprendente, diverso, inaspettato, virtuosissimo nelle scelte di regia, con un grandissimo cast, sorprendente perché non si capisce mai dove il film va a parare, pieno di elementi anche fantastici, e credo una grande apertura per Venezia. Ti chiedo un'ultima cosa, Alberto. Sì. So che è una domanda sempre un po', magari non facilissima, però il film che sei più orgoglioso di aver portato a Venezia, e se ti è sfuggito qualcosa che avresti voluto avere e non sei riuscito ad avere? Ma guarda, quello ogni anno c'è qualcosa che ti sfugge, che vorresti avere, che non puoi avere e che poi non c'è perché scelte di quello che oggi si chiama il marketing, cioè le scelte di promozione che fanno i grandi studio. Il film che volevo assolutamente avere, per esempio, era il film di David Fincher, Gone Girl, che uscirà in ottobre anche in Italia, farà l'apertura del Festival di New York a fine settembre, e quello un po' mi spiace. L'altro film che mi dispiace di non avere, ma per altri motivi, è il film di Ermanno Olmi sulla Prima Guerra Mondiale. Ermanno ha deciso di non andare a nessun festival con questo film, vuole che sia visto direttamente dal pubblico come una riflessione, una testimonianza sul dramma della guerra, e quindi non voleva partecipare in un contesto festivaliero che avrebbe forse snaturato il principio stesso per cui lui ha deciso di fare ancora un film, nonostante l'età, gli acciacchi che ha, insomma, ecco questo. Però un po' mi spiace, ovviamente, anche se di rispetto, e capisco la sua decisione. Quanto al film che sono contento di aver portato a Venezia, ma sai, tutti, perché tutti i film che ho scelto li ho amati, è sempre così, se un film non mi convince per un motivo o per l'altro, insomma... Però dai, dirai a un tuo amico, guarda, vieni a Venezia perché quest'anno c'è questa cosa qua. Ma sai, sì, certo, solo che se lo dico di un film in concorso faccio un torto a tutti gli altri. E allora diciamolo di uno fuori concorso. Sono tanti i film che consiglierei agli amici di non perdere. Vabbè, dai, facciamo così, ne cito uno perché mi piace moltissimo, è un film di Benoît Jacquemin, in francese. C'è una forte rappresentanza francese a Venezia quest'anno, è un anno particolarmente forte per il cinema francese in generale. Il film di Benoît Jacquemin è una sorta di melodramma sentimentale, molto bello, con un cast straordinario, perché c'è Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve e il grandissimo Benoît Poelvoorde, che in Italia non è molto conosciuto ma che in Francia è una grande star e che sarà tra l'altro a Venezia addirittura in due film in concorso, perché c'è anche nel film di Xavier Beauvoir che si chiama Le Rançon de la Gloire, che è un altro film che io personalmente amo tantissimo, un omaggio a Chaplin, che sarà un'altra delle sorprese di questa competizione. E con Benoît Jacquemin allora abbiamo chiuso assolutamente in bellezza, siamo riusciti a estorcere un film del cuore di Alberto Barbera per la Mostra del Cinema di Venezia. Grazie mille, Alberto, davvero buon lavoro per questi prossimi 11 giorni duri che ti aspettano. Grazie molte, a presto, ciao. Adesso giochiamo insieme perché c'è da sentire la seconda traccia del film misterioso di oggi. Penny, mi ha telefonato tua madre. Dice che sei in castigo. Oh, io sono sempre in castigo. E Tracy, te l'ho detto mille volte. Non sai fare altro che saltellare come un'invasata. Tu sei rimasta agli anni 50. La Rosa Purpurea, @radio24.it, vostro nome, cognome, indirizzo, il titolo del film, se lo avete indovinato, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, dopo le novità e le previsioni su Venezia, insomma, da parte del direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, siamo in collegamento con gli amici di Film TV, come sempre, per parlare di cinema da vedere in casa. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Ovviamente il Giulio in questione è Giulio San Giorgio, ma ormai ci lo chiamiamo per nome perché è amico di tutte le migliaia di ascoltatori della Rosa Purpurea. Giulio, cominciamo con il risolvere il gioco della scorsa settimana. Si trattava di Noah. Anche noi potremmo ricominciare, credo. Un mondo nuovo e migliore. Prima però dobbiamo costruire. Sì, Noah, la storia di Noè, della sua arca nel diluvio universale, della sua missione per conto di Dio, rivista dal genio acido e ambiguo di Darren Aronofsky, che sperimenta un film biblico potentissimo con frammenti addirittura di stop motion e creature che invece sembrano uscite da un film di Michael Bay. Il film arriva in Blu-ray e DVD di ottima resa, con come extra un'ora di coinvolgenti immagini di backstage per mostrare quello che è stato l'incredibile lavoro svolto per portare questa storia epica sul grande schermo, con le riprese nei suggestivi paesaggi dell'Islanda e focus su effetti speciali, musica, trucco e poi sulla colossale impresa di realizzare l'arca a grandezza naturale. E allora, questo per quel che concerne Noah, che era il nostro game della scorsa settimana. Ovviamente i vincitori verranno avvisati direttamente dalla nostra segreteria. Andiamo invece a un film che è veramente la fine del mondo, perché stiamo parlando di 4:44, Last Day on Earth, e la regia di Abel Ferrara è datata 2011, un film che si può finalmente recuperare in un video. Qui in redazione abbiamo discusso molto su come dovrei affrontare gli ultimi minuti. Non importa dove viviate e quanti soldi abbiate, dobbiamo tutti affrontare lo stesso destino nello stesso momento. Sì, è un importante recupero questo di Movies Inspired e Eagle Pictures, 4:44, Ultimo giorno sulla Terra, un film di Abel Ferrara sfuggito agli schermi italiani, eccetto che a quello della Mostra del Cinema di Venezia, in cui era stato presentato in concorso nel 2011. Mancano 14 ore e 44 minuti alla fine del mondo e Ferrara guarda l'apocalisse da un piccolo appartamento nella quotidianità di un loft artistoide, dove quel che sconcerta davvero sono le dipendenze dell'umanità che mette in scena, un'umanità così alienata dal lavoro da lavorare anche l'ultimo giorno, così stremata dalle proprie nevrosi da litigare fino alla fine e così drogata dalla televisione da non poterla spegnere nemmeno allo scoccare dell'ultima ora. È un film catastrofico, ma nelle forme è un kammerspiel satirico e dolorosissimo. E questo allora è un'altra delle novità in un video davvero da non perdere, 4:44, Last Day on Earth di Abel Ferrara. Giulio, diamo un'occhiata ai palinsesti televisivi, e come abbiamo fatto per questo mese di agosto, abbiamo questa settimana selezionato il tema, anche forse in virtù di quello che ci ha appena detto Alberto Barbera, la grande presenza del cinema francese alla Mostra del Cinema di Venezia. Ebbene, cinema francese dai prossimi palinsesti TV. Cominciamo con L'amante del prete su Iris alle 7:35 del mattino di mercoledì, un film poco conosciuto di un genio mai troppo osannato del cinema francese, Georges Franju, regista di un cult come Occhi senza volto, che recentemente è stato omaggiato da Leo Carax in Holy Motors e da Almodovar in La pelle che abito, regista che era documentarista e sperimentatore, che qui rilegge il romanzo di Émile Zola La colpa dell'abate Mouret e gira una parabola allucinata sul conflitto tra carne e anima, su un senso religioso mistico e fuori da ogni dogma, un film venato di anticlericalismo molto surrealista, straniato, alienato, inquietante, ma sicuramente affascinante. Rimaniamo su Iris per la seconda segnalazione, rimaniamo di mercoledì all'1:30 di notte. Crepa padrone, tutto va bene di Jean-Luc Godard, storia di due star internazionali, Jane Fonda e Yves Montand, e il racconto della loro storia d'amore, ma una storia d'amore messa in rapporto con gli operai di una fabbrica occupata in crisi. Godard innega, cancella e inacidisce tutti i luoghi comuni, anche quei luoghi comuni che ama, per sviscerare il concetto di lotta di classi, sostanzialmente gira una sorta di love story per parlare di dialettica marxista. Grazie allora Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, dopo i film da vedere in casa, quelli da vedere sul grande schermo nella prossima stagione cinematografica che ormai si sta aprendo, perché la Mostra del Cinema di Venezia che sta per cominciare è il momento in cui di fatto si apre la stagione cinematografica nuova, la nuova stagione autunno-inverno, diciamo così. E allora, a chiudere questa nostra carrellata di anteprime assolute rispetto ai film che usciranno poi a ottobre, novembre, dicembre, addirittura all'inizio del prossimo anno, c'è Silvio Muccino. 4 anni anni di inattività. Qualcuno si è chiesto dove fosse finito Silvio Muccino rispetto al suo precedente film. L'attore regista 32enne torna con un film che si intitola Le leggi del desiderio, perché La legge del desiderio risuona un po' al modovariano, invece questo è Le leggi del desiderio, e si incentra su una figura molto molto affascinante e anche molto presente nei nostri tempi, quella del cosiddetto life coach, cioè di qualcuno che ti insegna a trovare la strada giusta nella vita, sembra avere sempre segreti da svelare, modi di comportamento da attuare. E il life coach del caso nel suo film è proprio Silvio Muccino, che ci spiega così questa particolare figura. Sono persone a volte capaci, altre volte un po' meno, ma che insomma si vendono come persone che hanno il segreto della vita in mano, il segreto del successo, come realizzare ogni desiderio. Il suo slogan del mio personaggio è proprio questo: qualunque sia il tuo desiderio, io posso aiutarti a realizzarlo. Il mio personaggio invece alza la posta e dice: vuoi potere, successo, piacere, amore, soldi, lusso, qualunque cosa, io so come fare. Perché la teoria di questi personaggi ai quali mi sono veramente ispirato è qualcosa che scivola tra le concezioni più new age della legge dell'attrazione, da qui un po' la citazione del titolo, però ha qualcosa di molto scientifico. Si rifanno Anthony Robbins, che è un po' il modello a cui mi rifaccio, che è stato il life coach di Clinton, Donald Trump, viene dalla programmazione neurolinguistica, per cui la scienza del comportamento. Diciamo che se questo film avesse un sottotitolo, forse ce l'avrà, diciamo che forse l'ho trovato in questo momento, sarebbe attenti a quello che desiderate, perché potreste ottenerlo. Questa cosa sui life coach intercetta anche un momento della nostra società, della nostra vita, con tanta incertezza, tanta insicurezza. Tutti noi vorremmo una guida in 10 punti per andare ad arrivare dove vogliamo arrivare. Sì, è purtroppo un grande male anche questo, nel senso che queste persone fanno il successo, creano successo proprio su questa insicurezza, su questo smarrimento, creando, loro credono, un paradigma di comportamento ideale che depersonalizza. In effetti il tema poi profondo di questa storia è proprio questo, cioè è qual è il compromesso per avere quello che si desidera, fin dove si deve cambiare la propria persona, perché poi tutto sta nel rendersi, nel trasformarsi, nel modellarsi, dicono loro. Poi dicono loro, perché in effetti io per questo film mi sono preparato studiando libri e libri e libri di tanti life coach reali. Alcuni parlano di legge dell'attrazione, altri parlano di Kabbalah, altri parlano di programmazione neurolinguistica, che è una scienza basata è una parascienza per loro, basata proprio sul linguaggio del corpo. E questo cialtrone che interpreto io maneggia però delle armi molto potenti e guiderà le sue cavie verso una realizzazione, però non lastricata d'oro come sembra. Parlaci di queste cavie, sono tre, se non sbaglio, i personaggi su cui lui esercita il suo influsso più o meno malefico. Esatto, esatto. Sono, per adesso posso dirti questo, sono Maurizio Mattioli, che interpreta una vecchia gloria della vendita del folletto porta a porta. Ormai non esistono più queste persone, se esistono ormai sono ventenni con una fame di farcela enorme. Lui non vuole mollare. E forse non vuole arrendersi all'età che avanza. Poi ci sarà Carla Signoris, che interpreta una simpaticissima e buffissima segretaria di un vescovo che sogna di diventare la scrittrice con i suoi romanzi hard, da far impallidire le 50 sfumature di grigio. E poi ci sarà Nicole Grimaudo, che invece è una perfetta Bridget Jones con una vita strampalata. Che persone producono questi life coach? Cioè, il risultato finale è di un'aridità, sembra, no? Beh, in effetti è che non persone producono, perché è molto depersonalizzante il lavoro che fanno. Almeno, non tutti, alcuni di loro. Diciamo che esiste una cosa di cui il film poi parla anche, che si chiama modellamento, che è un processo vero e proprio, insomma, di modellarsi a un modello vincente. Ecco, io in questo mi sono interrogato quando ho sentito questa cosa qui, e forse proprio da questo strano territorio in cui si cambia o ci si perde, si guadagna o si perde, Forse da questo proprio è nata la scintilla che ha acceso in me e in Marco Belardi della Lotus il desiderio di fare questo film. E allora anche Silvio Buccino alla Rosa Purpurea a parlarci dei suoi progetti ormai imminenti, il suo Le leggi del desiderio sugli schermi italiani nella prossima stagione, nel prossimo autunno. Chiaramente ci ritorneremo su quando il film sarà pronto. E allora, grazie per averci seguito, buon Festival di Venezia a chi avrà la fortuna di recarsi al Lido per qualche giorno per una scorpacciata di film. Noi saremo lì, vi racconteremo tutto la prossima puntata. Come sempre qui alla Rosa Purpurea il sabato alle 15:30, la domenica alle 15 in replica. Un saluto da Franco D'Assisi.